Ottava legislatura della Repubblica Italiana, seduta del 20 giugno 1979. Onorevoli colleghi, con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vostro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. Ma in particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro e avere speso tanta parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita. Su tutti noi, onorevoli colleghi, incombe un compito arduo. Ognuno di noi ha avvertito, io credo, negli anni appena trascorsi, malgrado la mole sempre più ingente di lavoro svolto e l'abnegazione dei parlamentari, la difficoltà per le assemblee di vivere e operare col Paese, per rispondere ai mille drammatici problemi dell'economia e dei lavoratori, nelle fabbriche e nelle campagne, dei giovani, delle donne, della pubblica amministrazione, della scuola, della magistratura, delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei pensionati, cioè a quel complesso e intricato processo di democrazia e di liberazione che è segno del nostro tempo e che accompagna l'avanzare dei lavoratori alla direzione dello Stato. Il Parlamento, questo altissimo strumento di democrazia, non può e non deve essere superato dai tempi. Esso, al contrario, deve riuscire a guidare questo processo, non già nel senso di confondere le diverse funzioni degli organi istituzionali dello Stato, che nessuno più di me, per il mio stesso lontano passato, è convinto che tali diverse funzioni sono presidio di democrazia, ma nel senso che il Parlamento diventi iniziativa, stimolo, confronto e incontro delle volontà politiche del Paese e assolva in questo modo la sua altissima funzione di guida. Fare questo con rigore, con dedizione, con proibità, significa attuare la Costituzione repubblicana, renderla operante, ispiratrice della vita del Paese. Le parole che avete ascoltato sono quelle pronunciate da Nilde Iotti e dovrebbero, credo ancora, essere ripronunciate da una donna all'interno delle più alte cariche di questo Stato. La mia è una riflessione brevissima, perché credo che ormai non sia più tempo di tante parole. Stiamo assistendo a un momento che non possiamo più definire di crisi, come se questa parola dovesse coprire tutta una serie di mali affari. La crisi vera è una crisi culturale. La crisi vera è una crisi di fiducia e di rispetto verso le istituzioni. E non perché aumenti il grado di anarchia da parte della gente, ma perché è aumentato il grado di corruzione, di malaffare, di compromissione stessa del valore delle istituzioni. Viviamo in un momento in cui non si riesce più a distinguere tra ciò che serve e ciò che non serve, tra ciò che è portatore di un messaggio che ha senso e ciò che invece è chiacchiera, rumore e informazione vuota di contenuti veri. È un male che colpisce ovunque. Proliferano anche i tentativi di creare manifesti della cultura, a partire da quello promosso dal Sole 24 Ore. Noi stesse come donne di carta abbiamo tentato di stilare con il documento della Carta dei diritti della lettura una chiamata forte proprio alla messa in gioco di uno Stato che difenda i diritti e che si basi sul diritto. Ma quando assistiamo a una serie di operazioni criminose, di collusione con tutto ciò che economicamente, finanziariamente sembra essere ormai la legge dominante del nostro mondo, abbiamo manifestazioni di ignoranza terribile anche da parte di noi cittadini, che invece di alzare la domanda di formazione, di crescita e di intelligenza, ci abbassiamo sempre di più ad accontentarci di soluzioni gratificanti del momento, di felicità, come dire, effimere e qualunquiste, che dimenticano intenzionalmente la gravità delle situazioni che invece nascondono. Un esempio su tutti, il campionato europeo, che è nato sul sangue di cani randagi, che è nato sullo sfruttamento del turismo sessuale. Problemi di cui non si parla, mentre intanto milioni e milioni di italiani applaudono e sono felici di una palla che finisce in rete. In Italia alcune realtà associative si stanno muovendo per la chiusura dei cosiddetti lager, dove gli animali vengono usati, portando avanti ancora una volta questa pratica della vivisezione che molte riviste scientifiche e molte persone dell'ambiente hanno già denunciato come inutile per la salute dell'uomo. Rimane sempre al fondo il problema del rispetto, il problema di un rispetto che non deve partire da una sovranità umana nei confronti di tutte le altre specie subalterne, ma nella convinzione profonda e nella crescita profonda di una cultura del rispetto che si basi sulla convivenza tra pari, ugualmente imperfetti, aggiungerei, ma comunque pari. Stiamo assistendo esattamente al contrario in tutte le sfere di applicazione, dall'economia, dalla giustizia sociale, dalla convivenza difficile e non ospitale con chi emigra nel nostro paese, dalla discriminazione sessuale, dal femminicidio continuo, che è sintomo ancora una volta di una mancanza culturale. Stanno sorgendo anche su questo tema terribile del femminicidio esempi di intervento che rischiano di diventare la cura per malati di mente, la cura per gente che non sa trattenere le proprie emozioni e le proprie passioni e che sfocia nella violenza come comportamento abnorme. Non metto in dubbio, non ho competenze psicologiche, né psicoanalitiche né psichiatriche, non metto in dubbio che ci siano casi di questo tipo, ma metto invece in dubbio che siano queste le ragioni vere che portano a questo odio verso le donne e a questa esplosione nelle relazioni di genere. Esiste sempre, a ragione di tutto, una mancanza culturale che superi il sessismo dominante nel linguaggio, nelle mentalità, negli stereotipi, nei simbolismi, nell'immaginario. Solo il lavoro della conoscenza e diventare tutti operai di questo lavoro può forse permetterci di immaginare un mondo diverso, non so più dire se migliore, ma sicuramente diverso da questo. Volevo che le parole di Nilde Iotti significassero semplicemente questo, che bisogna assumersi in prima persona la responsabilità di portare avanti, ciascuno nel proprio spazio, nella propria applicazione domestica, pubblica, professionale, quel senso di responsabilità su cui si deve fondare ogni senso di appartenenza a una comunità. Non vuole certo essere un proclama politico quello che sto dicendo, né l'associazione Donne di Carta si pone come un'associazione politica. Noi siamo convinte, fin dal nostro statuto, che ha come obiettivo la promozione della lettura e della cultura, e della lettura intesa come atto fondamentale di interpretazione della realtà, diritto della persona, diritto permanente in tutti i momenti della sua vita. Ecco, noi crediamo fermamente che la cultura sia un bene comune, che la cultura sia azione politica, perché è al servizio della comunità. Visto che il potere della parola, che informa, che diffonde le notizie, è importante per costruire un lavoro della conoscenza. Credo che sia arrivato il momento in cui un giornalismo consapevole del proprio ruolo ritorni ad appropriarsi dell'importanza delle parole e della necessità di fare delle parole anche azioni. Vorrei assistere a trasmissioni televisive e leggere articoli in cui trovino spazio racconti di cose che ci sono e che funzionano, di esempi ed esperienze di volontariato culturale, sociale, di azioni concrete che i cittadini fanno nella loro vita tutti i giorni, non per decretare una nuova epica di eroi, ma per indicare quei valori di cittadinanza che sono veramente solidali e rispettosi. Non voglio un giornale o una trasmissione di buoni sentimenti e tantomeno di promesse. Vorrei un report, per dirla tutta, che accanto alle denunce importanti e fondamentali racconti sempre di più i soggetti veri di questo paese reale, relegando invece forse nello spazio della dimenticanza, dell'oblio, che sono gli unici luoghi giusti per la vergogna, tutte quelle azioni politiche, sociali, manageriali, finanziarie, bancarie e purtroppo anche dei cittadini qualunque, che di questo tessuto sociale non contribuiscono assolutamente a costruirne la vera realtà. Troppo spesso è facile lamentarsi di quello che non c'è e di quello che accade, se intanto l'informazione non satura la mancanza di raccontare tutto quello che c'è, che accade di buono, di positivo, da parte di chi effettivamente ogni giorno spende tempo ed energie, la propria quotidianità, per cambiare le cose. Questa è la cultura. Buona giornata.